Dalla un fiore nasce una margherita, da una margherita nasce una pianta, da una amicizia che può nascere. L'amore. L'amore cosa nasce? Un bambino e poi uno diventa ragazzo padre. Ragazzo padre comincia il lungo calvario della vita quotidiana. Depressione, debiti, a casa pagare. E poi se l'amore si fece. Questo racconto inizia dall'81, di Terroni a Varese ce n'era più di uno. Vi racconto una storia che non avete mai visto. Dopo quello che dico, un po' sul culo vi sto. Mio padre e mia madre emigrati a Varese, da lontano laggiù pensavano un bel paese. Questi due ancora non si conoscevano affatto. Mia madre con la sua famiglia un motore disfatto. Poi la storia ebbe inizio, un uomo venne da laggiù, pensando faccio il figo, spacco tutto quando sono lassù. Alla stazione qualche anno prima dell'81 arriva un treno carico di gente, forse nessuno. Ehi, guardate che lì è un Terroni che schi, viene fottere, lavorami, penso proprio di sì. Il mio babbo era sceso da poco in un territorio di fuoco, dove lui solo pensava fosse un bel gioco, raggiungendo sua sora che l'aspettava da un'ora, preoccupata in pensiero su quella strada di fora. Mamma che puzza un odore forte di muffa, poi la notte non mi fa dormire, forte le russa, con sti capelli ingelati mi sembri il Renato Zero. Lunghi e lisci stirati li lavi spesso, lo spero. Te credo che ti hanno cacciato fuori di casa, ti hanno visto conciato, così hai chiamato la NASA. Ma un giorno guardando lassù un cielo più blu, hai visto un sole bellissimo e tu ti sei lanciato alla conquista della tua pollastrella. Non avevi un soldo in tasca e solo una caramella. Come hai fatto non so, l'hai sposata però, figli meglio di no con la sfiga che c'ho. Da un giorno nasce una margherita, da una margherita nasce una pianta, da una magia che può nascere. L'amore. L'amore cosa nasce? Un bambino e poi uno diventa ragazzo padre. Ragazzo padre comincia il lungo calvario della vita quotidiana. Ti credevi sfigato, la vita ti hanno rubato, pensavi fossi sballati, invece tuo figlio era nato. Guarda che bello, è proprio bello. Poi di nascosto pensavi scotto e fornello. Da quel giorno la vita di loro due era cambiata. In famiglia un bambino cresceva a testa arretrata. Non si capiva cosa avesse questo bimbo in realtà. Giocava con le bambole, forse è un uomo a metà. La mamma lo sgridava mentre era con gli altri bambini dell'asilo, tentava di intossicarsi. Toccava di tutto, piangeva sempre di brutto. Poi da casa progettava una fuga di gruppo. Con i terroristi era costretta a giocare, perché gli angioletti con lui non ci volevano stare. Era circa l'anno 87, io scrivevo da un pezzo, Babbo Natale ti aspetto. Volevo un fratellino che mi stesse vicino, mi coprisse le spalle dicendo un bravo bambino. Ma la cicogna carogna quell'anno si è spaventata, e 6 febbraio dal cielo una culla è scivolata. Una femminuccia, anzi forse un alieno, io di notte la spiavo, ricordo come ridevo. Era veramente la bambina più brutta, sembrava una mia bambola tutta distrutta. Mi tirava i capelli e giocava con gli scimmiotti, tanto che assomigliava a Mariangela di Fantozzi. Era circa l'anno 92, io scrivevo da un pezzo, Babbo Natale ti aspetto. La speranza in me non era ancora finita, ma quell'anno Lauretta non so da dove è uscita. Da un giorno nasce una margherita, da una margherita nasce una pianta, da una magia che può nascere. L'amore. L'amore cosa nasce? Un bambino e poi uno diventa ragazzo padre. Ragazzo padre comincia il lungo calvario della vita quotidiana. Da un fiore nasce una margherita, da una margherita nasce una pianta, da una magia che può nascere. L'amore. L'amore cosa nasce? Un bambino e poi uno diventa ragazzo padre. Ragazzo padre comincia il lungo calvario della vita quotidiana. Depressione, debiti, a casa pagare. E poi se l'amore si finisce.